occhi di stelle, troppo tempo, il tempo che non ti vedo più. Bocca di luna che non mi parli, perché non parli? Che vita, la vita, che vita sei tu. Un Latin lover con la faccia da Beethoven, dentro un paltò se non mi sbaglio, blu. Sotto i capelli bianchi, sotto i colori stanchi, del cielo parlava da solo, diceva. Adesso cosa devo fare? Uccidermi? Se non ti so dimenticare, ucciderti. Mettiamo che ti dovessi parlare, cosa devo fare? Scriverti. Passavano le ore, mi si gonfiava il cuore vederlo camminare su e giù. Puoi fermarsi per poi guardare il mare tra i taxi di Riccione e i motoscafi blu. Mentre nel cielo passavano gli aeroplani, i razzi, le comete, molti altri oggetti strani, perfino l'andalo. E alcuni pezzi del passato che, siccome è già passato, non dovrebbero esserci, non dovrebbero esserci. Il Latin lover con il suo cuore di cartone, chissà cos'era stato in gioventù. Poteva essere un politico, o forse un accattone, o solo un Latin lover e niente di più. Ma adesso cosa devo fare? Uccidermi! Se non ti so dimenticare, ucciderti! E se questa notte non so nemmeno dove andare, uccidimi! Il cielo quella notte era uno schermo, con tanti punti bianchi, le stelle, così non le vediamo mai. Anche la luna che ci illuminava, dall'alto stupita guardava, chissà. Il Latin lover, i suoi capelli bianchi, le mani sui fianchi, era ancora lì. Apre le braccia come le ali, mi guarda, io e te siamo uguali, io e te siamo. Fratello, dobbiamo volare nei cieli limpidi. Bisogna imparare a sognare per essere liberi. Così non serve nemmeno volare per essere liberi. Fratello, dobbiamo volare nei cieli più limpidi. Bisogna imparare a sognare per essere liberi, così non dovremmo volare, per essere liberi. Fratello, dobbiamo volare nei cieli più limpidi, bisogna imparare a sognare per essere liberi, così non dovremmo volare per essere liberi.